Ciao a tutti carissimi ascoltatori di Radio Big World e benvenuti ad una nuova puntata dei Monologhi Esteriori. Io sono Elisa Elena Carollo e sono qui, come tutte le settimane, per parlarvi del mondo del teatro e della recitazione e farvi capire che in realtà non è così distante dalle vostre vite come può sembrare a prima vista. La settimana scorsa abbiamo parlato di Natale. Adesso il 25 dicembre è passato, però l'atmosfera delle feste natalizie rimane sempre con noi e lo sarà fino al 6 di gennaio. Com'è andato il vostro Natale? Avete mangiato? Avete aperto i regali di Babbo Natale? Avete ritrovato tutti i parenti che non vedevate da tanto tempo? Spero che siano state delle felici feste, che siate stati insieme con la vostra famiglia, con i vostri cari e che vi siate sentiti tutti più buoni e più generosi facendo i regali agli altri. Perché a Natale siamo tutti più buoni, no? Ecco, in realtà questa è una cosa del Natale che non mi piace proprio tanto. Questo concetto che a Natale siamo tutti più buoni, bisogna fare del bene, essere generosi, perché è Natale. Non fraintendetemi, non c'è niente di male nell'essere buoni e generosi e nel fare qualcosa di bene per gli altri. Anzi, il problema è farlo soltanto a Natale perché è Natale. Insomma, mi pare un po' ipocrita fare del bene a Natale quando tutto il resto dell'anno magari ce ne freghiamo delle altre persone. Meglio solo a Natale che mai. Però se si potesse conservare un po' di bontà anche dopo il 6 di gennaio da mantenere per il resto dell'anno, non sarebbe poi così male. Che cosa ne dite? In fondo fare qualcosa di buono per gli altri richiede uno sforzo, però ci dà anche tanto in cambio. Ci dà la soddisfazione di aver fatto qualcosa di buono, ci fa vedere la gioia negli occhi degli altri, ci fa sentire utili. Quindi per questa puntata mi sono prefissa la missione di convincervi a portare questa bontà e generosità natalizia anche nel resto del vostro anno. Quello nuovo, il 2018, che sta per iniziare. E mi aiuterà un testimonial d'eccezione, il famoso signor Ebenezer Scrooge. Beh, quello alla fine della storia, non quello all'inizio, ovviamente. Tutti lo conoscete, è il protagonista del Canto di Natale di Dickens. E sì, lo so cosa state pensando, sto barando di nuovo. Lo so. Però ve l'ho detto anche l'altra volta che non ci sono tante opere teatrali che parlano del Natale. E comunque il Canto di Natale è stato adattato molte volte per il teatro e per il cinema, quindi non è poi tanto barare. Diciamo che sto barando di più per il fatto che ho scelto un personaggio maschile. Però, insomma, ci sono così pochi personaggi femminili nella storia del teatro. Gli autori si sono affidati ad un sacco di personaggi maschili per dire cose significative, interessanti, e io questa volta ho deciso di prenderne uno, volgerlo al femminile, tanto non cambia così tanto, e interpretarlo io. Alla fine, ok, il signor Scrooge era un signore ricco dell'Ottocento, però al giorno d'oggi ci potrebbe essere una signora ricca e avara che sfrutta i suoi dipendenti e vuole tenersi tutte le ricchezze per sé. Immaginate che ci sia questa signora Scrooge. Fatemi questo favore. La storia del Canto di Natale non ve la sto neanche a spiegare perché l'avrete vista e rivista in tutte le salse. Vi ricorderete sicuramente il momento decisivo in cui Scrooge cambia la sua visione del mondo, quando vede il funerale di questa persona a cui non c'è nessuno e nessuno è dispiaciuto per la sua morte. Si avvicina alla tomba e vede che il nome è il suo. Quindi questo è il momento che vi voglio recitare. sono io, quella che giace su quel letto. No, spirito, no, no, spirito, ascoltami. Non sono più quella che ero. Non sarò più quella che sarei diventata se non avessimo avuto questa discussione. Altrimenti perché mostrarmi questo se sono al di là di ogni speranza? Buono spirito, intercedi per me, compatiscimi. Assicurami che posso ancora cambiare questo infausto destino che mi hai mostrato, cambiando vita. Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di conservarlo per tutto l'anno. Vivrò nel passato, nel presente e nel futuro. Gli spiriti di tutti e tre i Natali si sforzeranno dentro di me. Non metterò a tacere le lezioni che mi hanno insegnato. Per favore, dimmi che posso cancellare la scritta da questa lapide. Certo, deve essere stato un bello shock vedere il proprio funerale, il proprio nome scritto sulla lapide e vedere che nessuno era triste per la propria scomparsa. Ovviamente questo non capiterà mai a nessuno di noi e spero anche che nessuno di noi sia ai livelli di avarizia e di egoismo di Scrooge. Come al solito, quella che vi ho presentato nel monologo è una situazione estrema e noi per calarci in questa visione dobbiamo un pochino ridimensionarla e adattarla a delle esperienze che abbiamo avuto nella nostra vita. Quello che vi sto per fare è effettivamente un discorso un pochino tragico, però non avete mai pensato a che cosa ricorderanno le persone dopo che voi ve ne sarete andati da questa terra? Che cosa avrete potuto lasciare al mondo? Qualcosa di concreto, di significativo, una differenza che avrete potuto fare con la vostra vita e che non ci sarebbe stata se voi non foste mai esistiti. E io faccio questi pensieri, mi perdo in queste paranoie e mi chiedo se ho fatto veramente qualcosa di significativo, se ci sarà qualcosa per cui mi ricorderanno e se sono riuscita a fare la differenza anche magari per una sola persona, però a fare una differenza rispetto a quello che sarebbe successo se non mi avesse mai incontrata. E il fatto che la risposta sia no fa un po' paura perché non potrò essere viva per sempre. Prima o poi dovrò morire e spero che resti qualcosa degli anni che ho passato su questa terra. Ma non c'è bisogno di essere sempre così tragici, sì, me lo dico anche da sola. Sicuramente ci sono persone per cui siamo importanti e facciamo la differenza. I nostri genitori, se abbiamo un partner, dei figli, degli amici, dei parenti più o meno stretti con cui abbiamo un bel rapporto, le persone che aiutiamo, per cui magari abbiamo fatto anche solo un gesto significativo che però per loro è stato importante. Magari qualche donazione che abbiamo fatto in beneficenza che a noi non sembrava tanto, però sapete il discorso delle tante gocce che formano il mare. La beneficenza funziona così, quindi anche quello può fare una differenza nella vita delle persone. Quindi sicuramente nessuno di noi è come Scrooge. Il mio messaggio era che dovremmo ricordarci di essere buoni e di poter fare la differenza nella vita delle altre persone, non solo a Natale, ma in tutti i momenti dell'anno. Una nostra donazione per una buona causa, un regalo ad una persona che amiamo, un gesto fatto per aiutare qualcuno che ne ha bisogno, non valgono solo a Natale. Anzi, valgono anche di più in qualsiasi altro periodo dell'anno perché non va di moda essere buoni. Va di moda essere buoni solo a Natale per ora. Però potremmo esportare questa moda. Far andare di moda la bontà anche per tutto il resto dell'anno. Sarebbe una bella cosa. Magari si può mettere tra i buoni propositi per il 2018. Ah, e questa è l'ultima puntata dell'anno. Quindi colgo l'occasione per augurarvi un buonissimo inizio dell'anno nuovo. E ovviamente noi ci risentiamo. Non vi lascerò in pace solo perché cambia il numerino in fondo all'anno. Ci risentiamo la settimana prossima, che sarà anche l'anno prossimo, sempre qui su Radio Big World. E grazie per avermi ascoltato.